Io devo qui una duplice obbedienza. A voi che mi avete dato la vita e l'educazione. Vita ed educazione che mi hanno insegnato a obbedirvi. Voi siete il mio signore, a cui devo obbedienza perché sono vostra figlia. Ma qui c'è anche mio marito. E io credo di dovere a mio marito la stessa obbedienza che mia madre rese a voi, preferendovi a suo padre. Gentili signori, vi prego di ascoltare benevolmente quello che vi dirò. La mia aperta ribellione e le mie burrascose vicende provano che io amo quest'uomo e che desidero vivere con lui. Il mio cuore è legato anche alle esigenze della sua condizione. Ho imparato a conoscere il vero volto di mio marito dalle sue qualità spirituali e alla sua fama. E al suo valore ho consacrato il mio cuore e la mia felicità. Dunque, se dovrò restare qui come una larva in riposo mentre egli va in guerra, sarò privata dei diritti dell'amore. E l'assenza del mio caro mi provocherà un vuoto penoso. Lasciatemi partire con lui. Avanti! Mio marito mi ha detto che dovrò occuparmi di voi. Viaggeremo insieme. Andiamo? Un attimo. Si accomodi. Signora, dobbiamo andare. Lo so, lo so. Andiamo? Un attimo. Un caffè? No, grazie. Non bevo caffè. Signora, si accomodi. Ci sono notizie di mio marito. Il vostro amico Cassio è già arrivato e ha detto che vostro marito sta bene. Bene. Presto arriverà. Arriverà con una lamentela in bocca. Mio marito? No. No, no, il mio. Dice che parlo troppo, ma non ha motivo per dirlo. Per lui le donne servono solo a letto. Che razza di lingua! E che direbbe allora di una bruna intelligente? Ah, direbbe... La donna bruna non d'ingegno piatto. Troverà un bianco al suo colore adatto. Questi sono solo vecchi e insulsi paradossi, capaci di far ridere solo gli ubriachi nelle taverne. Saprebbe lodare meglio il peggio. E che direbbe allora di una donna veramente degna? Che è buona ad allattare i minchioni e a tenere i conti della serva. Che conclusione vuota e zoppicante. Non imparare da lui, Emilia, benché sia tuo marito. I nostri mariti sono arrivati. Andiamogli incontro. Voglia il cielo che il nostro amore e la nostra gioia crescano ogni giorno di più. Signora, ma lo sa? Il vostro amico Cassio è caduto in disgrazia. Ha ferito un uomo molto importante. Il vostro marito ha dovuto destituirlo dalla sua carica. Mi ha pregata di poter parlare con voi. Farò tutto quello che mi sarà possibile per aiutarlo. Sono sicura che il suo distacco è una questione di opportunità e non durerà al di là di quello. E mio marito mi ha ordinato, pregato, di chiedervi di convincere vostro marito a restituire a Cassio la sua carica. Io vi prego di farlo, mia buona signora. Mio marito, vi giuro, soffre come se tutto ciò fosse accaduto a lui personalmente. Ah sì? È un uomo giusto. Non temere, Emilia. Giuro che riavrà la sua carica. Quando faccio una promessa ad un amico vuol dire che so di poterla mantenere. Non darò più pace al mio signore. Gli parlerò tanto finché non avrà perso la pazienza. Lo terrò sveglio come un falco finché non l'avrò addomesticato. La mensa diventerà per mio marito un catechismo, il letto un confessionale. In ogni discorso farò entrare la difesa del nostro amico. Signora, così potrebbe farlo arrabbiare. Mio signore, stavo parlando con uno che era venuto qui per supplicarvi, disperato di aver perso la vostra benevolenza. Sto parlando del vostro amico. Se io godo di qualche grazia o potere capace di commuovervi, vi prego di riconciliarvi subito con lui. Potreste vederlo questa sera a cena o domani a pranzo, ma anche il pomeriggio, la mattina o la sera di martedì, ma anche mercoledì mattina. Sono sicura che è pentito. Dimmi, quando potrà venire da te? Dimmi, quando potrà venire da te? Sto parlando del tuo amico che tante volte ti accompagnava quando mi facevi la corte e che tante volte ha preso le tue difese quando ti rimproveravo. Sono contenta di aver trovato questo fazzoletto. Devo insistere tanto perché tu lo riceva? Non è una grazia quella che... Mio marito mi è stato appresso non so quante volte perché lo rubassi a Desdemona. Non è una grazia quella che ti chiedo, è come se ti avessi chiesto di metterti i guanti. Ma lei è così affezionata a questo dono. Suo marito le ha raccomandato di conservarlo, lei lo porta sempre con sé. O di nutrirti bene, o di ripararti dal freddo. È come se ti avessi chiesto di stare... Farò fare uno uguale per regalarla a mio marito. E questo lo restituisco a Desdemona. È come se ti avessi chiesto di stare molto attento alla tua salute. Dio solo sa che cosa vuole farne. Io non so nulla, ma voglio accontentare questo suo capriccio. Dimmi, quando potrà venire da te? Hai visto il mio fazzoletto? No. Emilia, ti ricordi dove l'hai visto l'ultima volta? No. Tutto bene, Emilia? Sì. Se mio marito non fosse puro di cuore e privo di sciocche gelosie, questo basterebbe a far nascere dei sospetti. Perché? Non è geloso? Mio marito? Credo che il sole della terra in cui è nato abbia prosciugato in lui questi umori. Secondo me vostro marito è arrivato. Gli parlerò ancora. Quando faccio una promessa ad un amico vuol dire che so di poterla mantenere. Emilia, non l'ho mai visto in questo stato. Ha iniziato a fare strani discorsi. Io ho provato a parlargli, ma lui cambiava discorso. È normale, è arrabbiato. Sì, all'inizio anche io l'ho pensato. Poi mi ha chiesto il mio fazzoletto, quello che lui mi ha regalato e che spero di non aver perduto. Insisteva: dov'è il fazzoletto? Io, parliamo del tuo amico. E lui: il fazzoletto, io il tuo amico. Adesso dice che diffida di me per via del fazzoletto. Quel fazzoletto deve avere qualche virtù magica. È una vera disgrazia averlo perduto. Uno o due anni non bastano per conoscere un uomo. Gli uomini sono soltanto stomaco e noi donne per loro cibo. Ci mangiano avidamente. Quando sono sazi, ci rigettano. Mio marito non sembra più lo stesso. Se fosse mutato nel volto, così come lo è nell'umore, io non lo riconoscerei più. Avevi detto che non è geloso. Se c'è un'ombra nella sua mente, si tratta di un problema di lavoro. Gli uomini, quando sono preoccupati da gravi problemi, si inquietano anche per le cose piccole, no? Dobbiamo pensare che gli uomini non sono degli dèi e non ci si può sempre aspettare da loro le stesse attenzioni che hanno per noi il giorno delle nozze. Merito il tuo disprezzo, Emilia. Che guerriera sleale sono. Mi sono permessa di accusare mio marito, ma adesso mi accorgo di averlo accusato ingiustamente. Ma sì, sì, si tratta di un problema di lavoro, come dici. Non è geloso. Non gli ho mai dato motivo per il più piccolo sospetto. Gli uomini non sono gelosi per un motivo. Sono gelosi perché sono gelosi. La gelosia è un mostro che si concepisce e nutre di se stesso. E allora Dio tenga questo mostro lontano dall'anima di mio marito. Speriamo. Tuo marito è venuto da me. Ah. Mi ha chiesto di te e di Cassio. Che gli hai detto? Che non ho visto nulla. Che sarei pronta a scommettermi l'anima che sei innocente. Qualche farabutto gli ha messo in testa di sospetti. La più pura delle mogli al tuo confronto è sporca come la calunnia. Io non posso ripetere le parole che ha detto. Provo orrore solo a pronunciarle, quelle parole. Sono una moglie onesta e leale. Spero che mio marito mi creda onesta. Come stai? Sono mezza morta. Che cosa è successo con tuo marito? Con chi? Con tuo marito. E chi è mio marito? Desdemona. Io non ho più alcun marito. Non chiedermi nulla. Piuttosto, stanotte, preparami il letto con le lenzuola delle nozze. Non dimenticartene. Che cosa sta succedendo? Che cosa è successo? Forse è giusto che mi tratti così. Sì. È giusto. Mio marito avrebbe potuto essere meno severo. Sì. Desdemona, io ho sentito. Tuo marito ti ha coperta di insulti con un tale disprezzo che nessuna donna dovrebbe sopportarlo. Nessuna. Ma dimmi, hai rinunciato a tutto per sentirti dare della puttana? Perché? Perché chiamarti sgualdrina? Non lo so. E chi sarebbero i tuoi amanti? Tuo marito è stato ingannato da un chiacchierone. È successa la stessa cosa anche a me. Allora, come devo fare per riconquistare mio marito? Io non so proprio come abbia potuto perderlo. che io non abbia più pace se ho offeso il suo amore. E se non lo amo come l'ho sempre amato e come lo amerò sempre, anche se ora egli mi scaccia da sé come una mendicante. La sua crudeltà può solo distruggermi la vita e non diminuire il mio amore. Aspetta. Sospirando sedette ai piedi del sicomoro, cantate tutti al verde salice. Le mani su. Ha detto che tornerà presto, perciò, cara Emilia, prepara un caffè e addio. Le mani sul suo seno, testa sulle ginocchia, cantate tutti al verde salice. Emilia, prepara il caffè. Vorrei che non lo avessi mai conosciuto. Ma io no, di lui amo tutto, e anche i rimproveri, le asprezze sono per me segno di attenzione e di benevolenza nei miei confronti. Le sue lacrime salate ammorbidirono la pietra. Emilia, il caffè? Ho messo nel letto le lenzuola che desideravi. Ah, sì, che strani pensieri che ci vengono certe volte. Se dovessi morire prima di te, avvolgimi, ti prego, in uno di quei lenzuoli. Non dimenticartene. Le sue lacrime salate, na na na na na. Mia madre aveva una cameriera che si chiamava Barbara. Questa Barbara era innamorata, ma l'uomo che amava un giorno commise la follia di abbandonarla. Barbara cantava spesso questa canzone, una canzone che raccontava di un destino simile al suo. Questa canzone stasera non vuole proprio uscirmi dalla testa. Chiama è falso il mio amore, ma cosa di sé poi lui? Se corteggio altre donne, tu giacerai con altri uomini. Questi uomini. Dimmi, Emilia, ma tu credi che esistano donne capaci di ingannare i loro mariti? Altro che. E tu faresti una cosa simile in cambio del mondo intero? Tu non lo faresti? Io no, lo giuro alla luce del sole. Ah, alla luce del sole neanche io. Magari al buio. E io credo che tu non lo faresti. Invece io credo che lo farei, ma chi non farebbe cornuto il proprio marito per farlo diventare il re del mondo? Che io sia maledetta se commettessi un peccato simile in cambio del mondo intero. Il peccato degli uomini è il peccato del mondo. Il tuo sarebbe un peccato del mondo che ormai ti appartiene. Quindi, da te stessa, perdonabile. No, non posso credere che esistano donne così. Ce ne sono tante da riempire tutto il mondo per il quale hanno tradito. Ma io credo che se le mogli tradiscono, la colpa è dei loro mariti. Sono loro che smaniano per la gelosia e ci tengono prigioniere, o che ci picchiano e ci riducono il denaro che ci davano prima. Anche noi abbiamo il fiele, benché non ci manchi qualche virtù, e siamo capaci di vendicarci. Sappiano i mariti che le loro mogli hanno esattamente come loro tutti i sensi. Vedono? Sentono? Hanno il palato per distinguere il dolce dall'amaro, come loro. E allora perché vanno con altre donne? Per passatempo? No, penso di sì. Spinti dalla passione? Penso anche questo. Li fa peccare la debolezza umana. Anche questo deve essere vero. E non abbiamo anche noi, come gli uomini, passioni, desiderio di passatempi, debolezze. Dunque, cerchino di trattarci bene, altrimenti sappiano che sono i loro peccati che ci insegnano a commettere uguali peccati. E è pronto il caffè? No. Quanto manca? Un po'. È pronto? No, no, non è pronto. Emilia, è pronto? No. È pronto. Non mi piace. Ti scrivo poche righe per dirti addio. Ho deciso di andare. Non erano questi i miei sogni. Non riesco più a vedere quello che vedevo. Lui non è più lui e io non sono più io. Amica mia, io non l'ho ancora detto a nessuno. Non ne farò parola per la strada. Si stupirebbero che io, così come sono, abbia deciso di morire. Piccola mia, queste parole arrivano troppo tardi. Ti chiedo scusa per non averti aiutato, per aver cercato di abituarti a tutto questo. Non è così l'amore. Gli insulti non sono mai un segno di benevolenza. Avrei dovuto parlare, non l'ho fatto. Chi mi avrebbe creduto? Ho sbagliato. Mi chiedo come ho potuto accettarlo. Non ti ho mai chiesto. Cosa vuoi? Quali sono i tuoi sogni? Adesso è tardi. Addio.